Terzo anello, ad alta voce, L'isola del tesoro di Robert Louis Stevenson. Data l'inclinazione del veliero, gli alberi sporgevano di parecchio sull'acqua e dalla mia postazione sul pennone non avevo sotto di me null'altro che lo specchio della baia. Hans, che non si trovava così in alto, era perciò più vicino alla nave e cadde fra me e il parapetto. Cominciai a sentirmi male e fui per svenire dal terrore. Sangue caldo mi scorreva sulla schiena e sul petto. Il pugnale, nel punto in cui mi aveva inchiodato la spalla all'albero, mi bruciava come un ferro rovente. Eppure non erano quelle pure autentiche sofferenze che mi torturavano. Quelle mi pareva che avrei potuto sopportarle senza un lamento. Era l'orrore che mi occupava la mente di precipitare giù dalle crocette dell'albero in quelle placide acque verdi, accanto al cadavere del timoniere. Mi aggrappai con ambo le mani finché le unghie non mi fecero male e chiusi gli occhi, quasi potessi così nascondermi il pericolo. Gradatamente ripresi conoscenza, il polso tornò a battere normale e fui di nuovo lucido. Mio primo pensiero fu quello di estrarre il pugnale, ma o che fosse penetrato troppo a fondo o che i miei nervi non ce la facessero, fatto sta che rinunciai al tentativo con un violento scossone. Strano a dirsi, fu quello scossone a liberarmi. Il coltello, difatti, mi aveva mancato per un capello, mi tratteneva per un briciolo di pelle, e questo lo scossone lo lacerò. Il sangue spicciò più abbondante, si intende, ma adesso ero di nuovo padrone di me, e all'albero ero attaccato soltanto dalla giubba e dalla camicia. Queste ultime le lacerai con uno strappo repentino, e poi riguadagnai il ponte per le sartie di tribordo. Per nulla al mondo mi sarei di nuovo avventurato, scosso com'ero, a strapiombo sulle sartie di Mezzana, dalle quali Israel era poco prima precipitato. Discesi e curai la mia ferita come potevo. Mi davano un poco dolore e sanguinava abbondantemente, ma non era né profonda né pericolosa, né mi impediva l'uso del braccio. Ero ormai solo sulla goletta. La marea aveva cominciato a declinare. Il sole era a così pochi gradi dal tramonto che già l'ombra dei pini sulla spiaggia occidentale cominciava ad allungarsi e a disegnare dei contorni in coperta. La brezza della sera si era levata e quantunque l'ancoraggio fosse ben riparato dalla montagna a due picchi verso levante, il sartiame aveva un po' cominciato a fischiar, piano piano, da solo, e le vele oziose a sbatter qua e là. Cominciai ad avvertire il pericolo per la nave. Abbassai i fiocchi in fretta e furia, gettandoli giù alla rinfusa sul ponte. Ma la randa fu una faccenda più seria. Naturalmente, quando la goletta aveva sbandato, il boma si era abbattuto fuori bordo e la cima di esso e un piede o due di vela si erano perfino immersi sott'acqua. Capivo che questo accresceva il pericolo, ma la tensione era così forte che esitavo a intervenire. Alla fine estrassi il coltello e tagliai le drizze. Il picco cadde di colpo. Una gran pancia di tela afflosciata galleggiò vasta sull'acqua. Dopodiché, per quanto tirassi, non potei smuovere l'ala bassa. Questo fu quanto mi riuscì di compiere. Per il resto, la spagnola doveva, con me, affidarsi alla sorte. Mi arrampicai sulla prua e guardai sotto. L'acqua sembrava abbastanza bassa e, reggendomi con ambo le mani per sicurezza al cavetto tagliato, mi lasciai dolcemente scivolar fuori bordo. L'acqua mi arrivava appena alla vita. La sabbia era solida e segnata dalle ondulazioni e io guadai verso terra col morale altissimo, lasciando la spagnola inclinata a quel modo, con l'immenso strascico della sua randa sulla superficie della baia. Quasi nello stesso istante il sole scomparve completamente e la brezza sibilò nel crepuscolo tra i pini agitati. Thank you. almeno finalmente ero fuori dal mare e non ne ritornavo a mani vuote. C'era lì la goletta finalmente ripulita di pirati e pronta a imbarcare i nostri e riprendere il mare. Nulla mi attirava quanto rientrare a casa entro la palizzata e vantarmi dei miei successi. Poteva darsi che fossi un po' rimproverato per essere scappato, ma la riconquista della Espagnola era una risposta esauriente e io speravo che lo stesso capitano Smollett avrebbe riconosciuto che non avevo perso il mio tempo. Con questi pensieri e con una baldanza fantastica cominciai a orientarmi verso casa, cioè verso il fortino e i compagni. Ciò mi condusse in prossimità del luogo dove avevo incontrato Ben Gunn, l'abbandonato, e avanzai con maggiore circospezione, guardandomi da ogni lato. L'oscurità mi aveva ormai circondato e quando sboccai dalla spaccatura tra i due picchi avvistai un vacillante bagliore contro il cielo, nel punto dove mi figuravo dovesse trovarsi l'uomo dell'isola, intento a cucinare la sua cena davanti a un falò scoppiettante. Non di meno mi chiesi tra me e me come potesse mostrarsi tanto imprudente. Perché se potevo vederlo io, quell'irradiamento non poteva giungere agli occhi di Silver in persona, nel suo accampamento, sulla spiaggia, tra le paludi. All'improvviso una specie di luminosità mi si diffuse intorno. Alzai gli occhi. Un pallido chiarore di raggi lunari si era acceso sulla cima del canocchiale e poco dopo scorsi una massa argentea che piano piano si spostava dietro agli alberi e vidi che la luna si era levata. Grazie a questo soccorso feci rapidamente il tragitto che mi rimaneva e ora camminando, ora correndo, impaziente, giunsi nei pressi della palizzata. Però, quando cominciai ad attraversare il bosco che le stava davanti, non fui così spensierato da non rallentare il passo e procedere un po' più avvedutamente. E sarebbe stata una ben misera conclusione delle mie avventure farmi ammazzare per errore dai miei propri compagni. Finalmente mi trovai proprio al limite della radura. L'estremità occidentale era già immersa nel plenilunio. Il resto e il fortino rimanevano ancora in ombra cupa, attraversata da lunghe strisce di luce argentea. Dall'altro lato della casa un immenso fuoco aveva bruciato fino alle braci roventi e diffondeva fissi riverberi rossi, in forte contrasto col morbido pallore della luna. Non un filo che muovesse. Non un suono, tranne il sussurro della brezza. Mi arrestai con immenso stupore in cuor mio e forse anche con una punta di paura. Non era stata consuetudine nostra accendere grandi fuochi. Stando agli ordini del capitano eravamo in un certo senso tirchi nel consumar legna. E così cominciai a temere che fosse successo qualche guaio mentre ero via. Girai furtivo dall'estremità orientale e tenendomi stretto all'ombra nel punto più adatto, dove l'oscurità era più fonda, varcai la palizzata. Intanto una cosa era certa, che facevano una maledettamente pessima guardia. Fossero stati Silver e i suoi a strisciare così verso loro, non uno avrebbe rivisto l'aurora. Ecco, pensavo, cosa voleva dire avere il capitano ferito. E di nuovo vi rimproveravo acerbamente di averli abbandonati a quel rischio, con così poca gente per montare di guardia. Nel frattempo ero giunto alla porta. Tutto era talmente buio all'interno che non potei afferrar nulla con gli occhi. E quanto a rumori vi era quel ronzio continuato dei russanti e di quando in quando un rumorino, una specie di starnazzare e becchettare che non riuscivo in nessun modo a spiegarmi. E allora, tutt'a un tratto, una voce stridula irruppe dalle tenebre. Oh, pezzi d'otto! Pezzi d'otto! Pezzi d'otto! E via di seguito, senza sosta né mutamento, come il battito di un minuscolo mulino. Il pappagallo verde di Silver! Il capitano Flint! Era lui che avevo sentito becchettare su un pezzo di corteccia! Lui, miglior guardiano di ogni essere umano che annunciava il mio arrivo con la sua monotona tiritera. Non mi fu lasciato tempo per riavermi. Agli acuti, taglienti richiami del pappagallo, i dormienti si destarono e balzarono in piedi. e la voce di Silver, con una truculenta bestemmia, urlò: «Chi va là?» Mi volsi per scappare, urtai con violenza contro qualcuno, indietreggiai e caddi in pieno nelle braccia di un altro, che dal canto suo mi rinchiuse e tenne saldo. «Porta una torcia, Dick!» disse Silver, quando la mia cattura fu in tal modo assicurata. E uno di loro lasciò la casa, per rientrare quasi subito con un tizzone acceso. Il bagliore della torcia, illuminando l'interno del fortino, mi mostrò che si era avverato il peggio delle mie apprensioni. I pirati erano in possesso di fortino e provviste. E ciò che moltiplicava il mio orrore, nessuna traccia di prigionieri. Non potei supporre altro se non che tutti fossero morti, e il cuore mi rimproverò aspramente di non essermi trovato lì per morire con loro. I pirati erano in tutto sei. Nessun altro era sopravvissuto. Quanto a Silver, mi parve piuttosto più pallido e più rigido del consueto. Indossava ancora l'ampio vestito di panno fine nel quale aveva compiuto la sua missione, ma in peggiori condizioni non avrebbe potuto portarlo, sporco com'era di fango e lacerato dalle acute spine del bosco. «Oh!» disse. «Eccoti, Jim Hawkins, per la galera. Ti ci sei infilato, Beh, vieni pure. Io non me la prendo». E con questo sedette sul barilotto dell'acquavite e si mise a riempire la pipa. Silver tirò una boccata o due con molto sussiego e poi riprese. «Ora, vedi, Jim... E dato che ti trovi qui, voglio rivelarti una parte del mio pensiero. Piaciuto, mi sei sempre piaciuto, come un ragazzo di spirito, il ritratto sputato di me stesso quando ero giovanotto. Ho sempre desiderato che tu fossi dei nostri e avessi la tua parte per finire da gentiluomo. E ora, eccoti arrivato, mio bel galletto. Il capitano Smollett è un magnifico navigatore, non mi stancherò mai di ripeterlo, ma un po' difficile quanto a disciplina. Il dovere è dovere, dice lui, e vai a dargli torto. Farai bene a scansarlo. Lo stesso dottore se l'è presa a morte con te. Ingrato briccone! Ecco come ti chiamava, ed eccoti la conclusione di tutta la faccenda. Non puoi ritornare dai tuoi, perché di te non ne vogliono più sapere. E a meno che non ti riesca di raggranellare un terzo equipaggio, bisognerà che tu ti metta col capitano Silver. Fin qui poteva andare. I miei amici dunque erano ancora vivi, e quantunque solo in parte prestassi fede all'affermazione di Silver, che fossero adirati con me causa la mia diserzione, ero rimasto più sollevato che afflitto da quanto avevo ascoltato. Se ti va, beh, verrai dalla nostra. Se non ti va, Jim, padronissimo di dire un bel no. Padronissimo, e accomodati pure, amico. E se un marinaio sulla terra può parlar più lealmente, possa io schiattare all'istante. Devo rispondere allora? Chiesi con voce assai tremula. Attraverso tutte quelle parole di scherno avevo realizzato di essere davvero in pericolo di morte. Le mie gote bruciavano e il cuore mi martellava furiosamente nel petto. Ebbene, risposi io facendomi un poco più ardito, se devo scegliere, dichiaro di aver diritto di sapere cosa è successo. Come mai siete qui? E dove sono i miei amici? Cos'è successo? Ripeté uno dei filibustieri con un cupo grugnito. Fortunato chi lo sapesse! Mi farà il sacrosanto favore di tenere la bocca chiusa finché non sarà interrogato! Gridò Silver, truce, al compare. Poi con il tono gentile di prima riprese, volgendosi a me. Ieri mattina, signor Hawkins, molto presto, si è presentato il dottor Livesey con bandiera bianca, dicendo: capitano Silver, siete stato tradito, il bastimento se n'è andato. Beh, può darsi che un goccio l'avessimo bevuto e fatto una cantata per digerirlo, non dico di no. Comunque nessuno di noi aveva guardato fuori. Guardammo allora e per la galera la vecchia goletta se l'era squagliata. Non ho mai visto una mandria di scemi aver l'aria più scema, e puoi star sicuro che questa più scema di così non poteva parere. Dunque, disse il dottore, trattammo lui ed io, e il risultato eccolo: provviste, acquavite, fortino, legna d'ardere, che foste tanto previdenti da tagliare per noi e per così dire tutta quella dannata nave, dalle crocette alla controchiglia, e quanto a loro m'hanno sgombrato non so dove. Tirò di nuovo tranquillamente una boccata alla sua pipa. E perché tu non ti metta in quella tua testolina, che tu sei compreso nel patto, eccoti l'ultima parola scambiata. In quanti siete, chiesi io, ad andarvene? In quattro, disse lui, quattro e uno di noi ferito. E quanto a quel ragazzo, non so dove si sia cacciato, vada pure al diavolo, che poco me ne importa, ne siamo più che stufi. Queste furono le sue parole. E ora devo scegliere. Ah, Ora devi scegliere proprio così, disse Silver. Bene, risposi. Non sono tanto sciocco da non sapere che cosa possa aspettarmi. Ma vada come vuole, me ne importa poco. Ne ho visti morire abbastanza da che mi sono imbattuto in voi altri. Ma una cosa o due devo pur dire. E a questo punto ero assai eccitato. E la prima è questa. Siete voi che vi trovate nelle peste. Nave perduta, tesoro perduto, compagni perduti, tutto il vostro affare naufragato. E se volete sapere chi ha fatto questo, sono stato io. Aspetta a me ridere. Sono io che ho manovrato i fili di questa faccenda fin dall'inizio e non ho più paura di voi che di una mosca. Uccidetemi se volete o risparmiatevi. Ma una cosa voglio dirvela e poi ho finito. Se mi risparmiate, chi è morto giace e quando comparirete in giudizio per pirateria, io vi difenderò quanto posso. Tocca a voi scegliere. Uccidere un altro senza ritrarne nessun beneficio o risparmiarmi, conservandovi qualcuno che vi salvi dal patibolo. Mi fermai, perché lo confesso mi mancava il fiato, e a mio stupore nessuno di loro si mosse. Restarono tutti a sedere, fissandomi, come tante pecore. «Ne aggiungerò un'altra io!» gridò il marinaio dal viso color mogano a nome Morgan, che avevo visto nella bettola di Long John, sulla banchina di Bristol. «Fu lui a riconoscere Cane Nero!» «Proprio così», aggiunse il cuoco di bordo. E ve ne voglio aggiungere un'altra io per la galera. E cioè che è stato questo ragazzo a fregare la carta a Billy Bones. Dal principio alla fine ci siamo inciampati in questo Jim Hawkins. E allora piglia questa! Disse Morgan con una bestemmia e si alzò brandendo il coltello quasi fosse stato il vendicatore di tutti. Alto là! Gridò Silver. Chi sei tu, Morgan? Ti sogni forse di essere il capitano? Ma te l'insegnerò io per la galera. Provati a contrariarmi e faccio presto a spedirti dove ne ho spediti parecchi di farabutti, dal primo all'ultimo prima di te, questi 30 anni. Chi dalla cima del Pennone, chi fuori bordo e tutti a ingrassar pesci. Non c'è mai stato uno che mi abbia guardato fisso negli occhi e abbia poi avuto un giorno di bene. Tom Morgan, te la puoi segnare. Morgan tacque, ma un mormorio di cattivo augurio sorse tra gli altri. C'è qualcuno di codesti gentiluomini che desideri venire a vedersela fuori con me? Ruggì Silver, sporgendosi in avanti dalla sua posizione sul barilotto, con la pipa sempre accesa nella mano. Date un nome a questa rivolta. Non siete mica muti, no? Chi lo desidera avrà il fatto suo. Nessuno si mosse. Nessuno rifiatò. Ecco di che razza siete! soggiunse riportando la pipa alla bocca. Certo, siete un'allegra brigata da rimirare. Ciò nonostante, non abbattersi, direi. Può darsi però che l'inglese di Re Giorgio lo comprendiate. Sono io il capitano qui e per elezione. Sono io il capitano perché sono il migliore di tutti di un buon miglio marino. Battervi non volete, come dovrebbero i gentiluomini di ventura. E allora per la galera dovrete ubbidire, sia chiaro. Ora, questo ragazzo mi piace. Non ne ho mai conosciuto uno simile. È più uomo lui di qualunque paio di voi altri, topi di fogna che non siete altro. Ed ecco quel che vi dico. Starò a vedere chi gli torcerà un capello. Ecco quanto. E potete segnarvelo. Seguì un lungo silenzio. Io stavo in piedi, addossato alla parete, con il cuore che mi continuava a battere a martello, ma con un raggio di speranza nel petto. Silver si appoggiò contro il muro incrociando le braccia, la pipa in un angolo della bocca, calmo, come fosse stato in chiesa. Essi dal canto loro si ritirarono a poco all'estremità più remota del fortino, e il loro bisbiglio sommesso mi risuonava continuamente all'orecchio come quello di un ruscello. Uno dopo l'altro alzavano gli occhi e la luce rossastra della torcia batteva un momento sulle loro contratte fisionomie. Ma non era verso me, era verso Silver che volgevano gli sguardi. Piero Baldini ha letto L'isola del tesoro di Robert Louis Stevenson. Riduzione Giovanni Piccioni. Regia Adelchi Battista. Coordinamento Fabiana Carobolante. Il terzo anello @rai.it